Capitolo ottavo de Il fu Mattia Pascal. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Capitolo ottavo. Adriano Meis. Subito, non tanto per ingannare gli altri, che avevano voluto ingannarsi da sé, con una leggerezza non deplorabile forse nel caso mio, ma certamente non degna d'encomio, quanto per obbedire alla fortuna e soddisfare a un mio proprio bisogno, mi posi a far di me un altr'uomo. Poco o nulla avevo da lodarmi di quel disgraziato che per forza avevano voluto far finire miseramente nella gora d'un molino. Dopo tante sciocchezze commesse, egli non meritava forse sorte migliore. Ora mi sarebbe piaciuto che non solo esteriormente, ma anche nell'intimo, non rimanesse più in me alcuna traccia di lui. Ero solo ormai, e più solo di com'ero io non avrei potuto essere sulla terra, sciolto nel presente d'ogni legame e d'ogni obbligo, libero, nuovo e assolutamente padrone di me, senza più il fardello del mio passato e con l'avvenire dinanzi che avrei potuto foggiarmi a piacer mio. Ah, un paio d'ali, come mi sentivo leggero! Il sentimento che le passate vicende mi avevano dato della vita non doveva aver più per me ormai ragion d'essere. Io dovevo acquistare un nuovo sentimento della vita, senza avvalermi neppur minimamente della sciagurata esperienza del fu Mattia Pascal. Stava a me. Potevo e dovevo esser l'artefice del mio nuovo destino, nella misura che la fortuna aveva voluto concedermi. E innanzitutto, dicevo a me stesso, avrò cura di questa mia libertà. Me la condurrò a spasso per vie piane e sempre nuove, né le farò mai portare alcuna veste gravosa. Chiuderò gli occhi e passerò oltre appena lo spettacolo della vita in qualche punto mi si presenterà sgradevole. Procurerò di farmela piuttosto con le cose che si sogliono chiamare inanimate e andrò in cerca di belle vedute, di ameni luoghi tranquilli. Mi darò a poco una nuova educazione. Mi trasformerò con amoroso e paziente studio sicché alla fine io possa dire non solo di aver vissuto due vite, ma d'esser stato due uomini. Già ad Alenga, per cominciare, ero entrato poche ore prima di partire da un barbiere per farmi accorciar la barba. Avrei voluto levarmela tutta, lì stesso, insieme coi baffi, ma il timor di far nascere qualche sospetto in quel paesello mi aveva trattenuto. Il barbiere era anche sartore, vecchio, con le reni quasi ingommate dalla lunga abitudine di star curvo sempre in una stessa positura, e portava gli occhiali sulla punta del naso. Più che barbiere, doveva essere sartore. Calò come un flagello di Dio su quella barbaccia che non m'apparteneva più, armato di certi forbicioni da maestro di lana che avevan bisogno d'essere sorretti in punta con l'altra mano. Non m'arrischiai neppure a fiatare, chiusi gli occhi e non li riaprii se non quando mi sentii scuotere pian piano. Il brav'uomo, tutto sudato, mi porgeva uno specchietto perché gli sapessi dire se era stato bravo. Mi parve troppo. No, grazie, mi schermì, lo riponga, non vorrei fargli paura. Sbarrò tanto d'occhi e... A chi? Domandò. Ma a codesto specchietto. Bellino. Deve essere antico. Era tondo, col manico d'osso intarsiato. Chissà che storia aveva e donde e come era capitato lì in quella sarto barbieria. Ma infine, per non dar dispiacere al padrone, che seguitava a guardarmi stupito, me lo posi sotto gli occhi. Se era stato bravo. Intravidi da quel primo scempio qual mostro fra breve sarebbe scappato fuori dalla necessaria e radicale alterazione dei connotati di Mattia Pascal. Ed ecco una nuova ragione d'odio per lui. Il mento piccolissimo, puntato e rientrato, che gli aveva nascosto per tanti e tanti anni sotto quel barbone, mi parve un tradimento. Ora avrei dovuto portarlo scoperto quel cosino ridicolo. E che naso mi aveva lasciato in eredità! E quell'occhio! Ah, quest'occhio, pensai, così in estasi da un lato rimarrà sempre suo nella mia nuova faccia. Io non potrò far altro che nasconderlo alla meglio dietro un paio d'occhiali colorati che coopereranno, figuriamoci, a rendermi più amabile l'aspetto. Mi farò crescere i capelli e con questa bella fronte spaziosa, con gli occhiali e tutto raso, sembrerò un filosofo tedesco. Finanziera e cappellaccio a larghe tese. Non c'era via di mezzo. Filosofo dovevo essere per forza con quella razza d'aspetto. Ebbene, pazienza, mi sarei armato d'una discreta filosofia sorridente per passare in mezzo a questa povera umanità, la quale, per quanto avessi in animo di sforzarmi, mi pareva difficile che non dovesse più parermi un po' ridicola e meschina. Il nome mi fu quasi offerto in treno, partito da poche ore da Alenga per Torino. Viaggiavo con due signori che discutevano animatamente d'iconografia cristiana, in cui si dimostravano entrambi molto eruditi per un ignorante come me. Uno, il più giovane, dalla faccia pallida oppressa da una folta e ruvida barba, pareva provasse una grande e particolar soddisfazione nell'enunciar la notizia, che gli diceva antichissima, sostenuta da Giustino Martire, da Tertulliano e da non so chi altri, secondo la quale Cristo sarebbe stato bruttissimo. Parlava con un vocione cavernoso che contrastava stranamente con la sua aria da ispirato. Ma sì, bruttissimo, bruttissimo! Ma anche Cirillo d'Alessandria, sicuro, Cirillo d'Alessandria arriva finanche ad affermare che Cristo fu il più brutto degli uomini!» L'altro, che era un vecchietto magro magro, tranquillo nel suo ascetico squallore, ma pur con una piega agli angoli della bocca che tradiva la sottile ironia, seduto quasi sulla schiena, col collo lungo proteso come sotto un giogo, sosteneva invece che non c'era da fidarsi delle più antiche testimonianze. Perché la Chiesa, nei primi secoli, tutta volta a consustanziarsi la dottrina e lo spirito del suo ispiratore, si dava poco pensiero, ecco, poco pensiero delle sembianze corporee di lui. A un certo punto vennero a parlare della Veronica e di due statue della città di Paneade, credute immagini di Cristo e della Emorroissa. «Ma sì!» scattò il giovane barbuto. «Ma se non c'è più dubbio ormai! Quelle due statue rappresentano l'imperatore Adriano con la città inginocchiata ai piedi!» Il vecchietto seguitava a sostenere pacificamente la sua opinione, che doveva essere contraria, perché quell'altro, incrollabile, guardando me, s'ostinava a ripetere «Adriano!» «Veronique» in greco, da «Veronique» poi «Veronica». «Adriano!» a me. Oppure «Veronica vera icon», storpiatura probabilissima. «Adriano!» a me. Perché la Veronique degli atti di Pilato «Adriano!» ripeté così «Adriano» non so più quante volte, sempre con gli occhi rivolti a me. Quando scesero entrambi a una stazione e mi lasciarono solo nello scompartimento, m'affacciai al finestrino per seguirli con gli occhi. Discutevano ancora, allontanandosi. A un certo punto però il vecchietto perdette la pazienza e prese la corsa. «Chi lo dice?» gli domandò forte il giovane, fermo con aria di sfida. Quegli allora si voltò per gridargli «Camillo de Meis!». Mi parve che anche lui gridasse a me quel nome, a me che stavo intanto a ripetere meccanicamente «Adriano». Buttai subito via quel «de» e ritenni il «Meis». «Adriano Meis». Sì, «Adriano Meis». Suona bene. Mi parve anche che questo nome quadrasse bene alla faccia sbarbata e con gli occhiali, ai capelli lunghi, al cappellaccio, alla finanziera che avrei dovuto portare. Adriano Meis, benone, m'hanno battezzato. Recisa di netto ogni memoria in me della vita precedente, fermato l'animo alla deliberazione di ricominciare da quel punto una nuova vita, io era invaso e sollevato come da una fresca letizia infantile. Mi sentivo come rifatta vergine e trasparente la coscienza e lo spirito vigile del mio nuovo io. Intanto l'anima mi tumultuava nella gioia di quella nuova libertà. Non avevo mai veduto così uomini e cose. L'aria tra essi e me s'era d'un tratto quasi snebbiata e mi si presentavan facili e lievi le nuove relazioni che dovevano stabilirsi tra noi, poiché ben poco ormai io avrei avuto bisogno di chieder loro per il mio intimo compiacimento. Oh, levità deliziosa dell'anima, serena, ineffabile ebbrezza! La fortuna mi aveva sciolto di ogni intrico all'improvviso, mi aveva sceverato dalla vita comune, reso spettatore estraneo della briga in cui gli altri si dibattevano ancora, e mi ammoniva dentro. Vedrai, vedrai com'essa t'apparirà curiosa ora a guardarla così da fuori. Eccola uno che si guasta il fegato e fa arrabbiare un povero vecchietto per sostenere che Cristo fu il più brutto degli uomini. Sorridevo. Mi veniva di sorridere così, di tutto e a ogni cosa. Agli alberi della campagna, per esempio, che mi correvano incontro con stranissimi atteggiamenti nella loro fuga illusoria, alle ville sparse qua e là, dove mi piaceva d'immaginar coloni con le gote gonfie per sbuffare contro la nebbia nemica degli olivi o con le braccia levate a pugni chiusi contro il cielo che non voleva mandar acqua. E sorridevo agli uccelletti che si sbandavano spaventati da quel coso nero che correva per la campagna fragoroso. All'ondeggiar dei fili telegrafici per cui passavano certe notizie ai giornali, come quella da Miragno del mio suicidio nel molino della Stia, alle povere mogli dei cantonieri che presentavan la bandieruola arrotolata, gravide e col cappello del marito in capo. Se non che a un certo punto mi cadde lo sguardo sull'anellino di fede che mi stringeva ancora l'anulare della mano sinistra. Ne ricevetti una scossa violentissima. Strizzai gli occhi e mi strinsi la mano con l'altra mano, tentando di strapparmi quel cerchietto d'oro, così, di nascosto, per non vederlo più. Pensai ch'esso si apriva e che internamente vi erano incisi due nomi, Mattia Romilda, e la data del matrimonio. Che dovevo farne? Aprii gli occhi e rimasi un pezzo accigliato a contemplarlo nella palma della mano. Tutto attorno mi s'era rifatto nero. Ecco ancora un resto della catena che mi legava al passato. Piccolo anello, lieve per sé, eppur così pesante. Ma la catena era già spezzata e dunque via anche quell'ultimo anello. Feci per buttarlo dal finestrino, ma mi trattenni. Favorito così eccezionalmente dal caso, io non potevo più fidarmi di esso. Tutto ormai dovevo creder possibile, finanche questo, che un anellino buttato nell'aperta campagna, trovato per combinazione da un contadino, passando di mano in mano con quei due nomi incisi internamente e la data, facesse scoprir la verità, che l'annegato della Stia, cioè, non era il bibliotecario Mattia Pascal. No, no, pensai, in luogo più sicuro. Ma dove? Il treno in quella si fermò a un'altra stazione. Guardai, e subito mi sorse un pensiero per la cui attuazione provai dapprima un certo ritegno. Lo dico perché mi serva di scusa presso coloro che amano il bel gesto, gente poco riflessiva, alla quale piace di non ricordarsi che l'umanità è pure oppressa da certi bisogni a cui purtroppo deve obbedire anche chi sia compreso da un profondo cordoglio. Cesare, Napoleone, per quanto possa parere indegno, anche la donna più bella. Basta. Da una parte c'era scritto uomini e dall'altra donne. E lì intombai il mio anellino di fede. Quindi, non tanto per distrarmi, quanto per cercar di dare una certa consistenza a quella mia nuova vita campata nel vuoto, mi misi a pensare ad Adriano Meis, a immaginargli un passato, a domandarmi chi fu mio padre, dov'ero nato, eccetera, posatamente, sforzandomi di vedere e di fissar bene tutto nelle più minute particolarità. Ero figlio unico, su questo mi pareva che non ci fosse da discutere. Più unico di così. Eppure no. Chissà quanti sono come me, nella mia stessa condizione, fratelli miei. Si lascia il cappello e la giacca con una lettera in tasca sul parapetto d'un ponte, su un fiume, e poi, invece di buttarsi giù, si va via tranquillamente, in America o altrove.

e mi proponevo tante cose. Mi proponevo di scegliere una via e una casa dove il nonno mi aveva lasciato fino all'età di 10 anni, affidato alle cure di una famiglia che avrei immaginato lì sul posto, perché avesse tutti i caratteri del luogo. Mi proponevo di vivere, o meglio, di inseguire con la fantasia lì sulla realtà la vita d'Adriano Meis piccino. Questo inseguimento, questa costruzione fantastica d'una vita non realmente vissuta, ma colta man mano negli altri e nei luoghi, e fatta e sentita mia, mi procurò una gioia strana e nuova, non priva d'una certa mestizia nei primi tempi del mio vagabondaggio. Me ne feci un'occupazione. Vivevo non nel presente soltanto, ma anche per il mio passato, cioè per gli anni che Adriano Meis non aveva vissuti. Nulla o ben poco ritenni di quel che avevo prima fantasticato. Nulla si inventa, è vero, che non abbia una qualche radice più o men profonda nella realtà. E anche le cose più strane possono essere vere. Anzi, nessuna fantasia arriva a concepire certe follie, certe inverosimili avventure che si scatenano e scoppiano dal seno tumultuoso della vita. Ma pure, come e quanto appare diversa dalle invenzioni che noi possiamo trarne la realtà viva e spirante. Di quante cose sostanziali, minutissime, inimmaginabili ha bisogno la nostra invenzione per ridiventare quella stessa realtà da cui fu tratta. Di quante fila che la riallaccino nel complicatissimo intrico della vita, fila che noi abbiamo recise per farla diventare una cosa a sé. Or che cos'ero io, se non un uomo inventato? Una invenzione ambulante che voleva, e del resto doveva forzatamente, stare per sé, pur calata nella realtà. Assistendo alla vita degli altri e osservandola minuziosamente, ne vedevo gli infiniti legami e al tempo stesso vedevo le tante mie fila spezzate. Potevo io riannodarle ora queste fila con la realtà? Chissà dove mi avrebbero trascinato. Sarebbero forse diventate subito redini di cavalli scappati che avrebbero condotto a precipizio la povera biga della mia necessaria invenzione. No. Io dovevo riannodar queste fila soltanto con la fantasia. E seguivo per le vie e nei giardini i ragazzetti dai 5 ai 10 anni e studiavo le loro mosse, i loro giochi e raccoglievo le loro espressioni per comporne a poco l'infanzia di Adriano Meis. Vi riuscii così bene che essa, alla fine, assunse nella mia mente una consistenza quasi reale. Non volli immaginarmi una nuova mamma. Mi sarebbe parso di profanar la memoria viva e dolorosa della mia mamma vera. Ma un nonno sì, il nonno del mio primo fantasticare, volli crearmelo. Oh, quanti nonnini veri, di quanti vecchietti inseguiti e studiati un po' a Torino, un po' a Milano, un po' a Venezia, un po' a Firenze, si compose quel nonnino mio. Toglievo a uno qua la tabacchiera d'osso e il pezzolone a dadi rossi e neri, a un altro là il bastoncino, a un terzo gli occhiali e la barba a collana, a un quarto il modo di camminare e di soffiarsi il naso, a un quinto il modo di parlare e di ridere. E ne venne fuori un vecchietto fino, un po' bizzoso, amante delle arti, un nonnino spregiudicato che non mi volle far seguire un corso regolare di studi, preferendo distruirmi lui con la viva conversazione e conducendomi con sé di città in città per musei e gallerie. Visitando Milano, Padova, Venezia, Ravenna, Firenze, Perugia, lo ebbi sempre con me, come un'ombra, quel mio nonnino fantastico, che più d'una volta mi parlò anche per bocca d'un vecchio cicerone. Ma io volevo vivere anche per me, nel presente. Ma saliva di tratto in tratto l'idea di quella mia libertà sconfinata, unica, e provavo una felicità improvvisa così forte che quasi mi ci smarrivo, in un beato stupore. Me la sentivo entrar nel petto con un respiro lunghissimo e largo, che mi sollevava tutto lo spirito. Solo, solo, solo, padrone di me, senza dover dar conto di nulla a nessuno. Ecco, potevo andar dove mi piaceva. A Venezia? A Venezia. A Firenze? A Firenze. E quella mia felicità mi seguiva dovunque.

Visitai le belle contrade del Reno, fino a Colonia, seguendo il fiume a bordo d'un piroscafo. Mi trattenni nelle città principali, a Mannheim, a Worms, a Magonza, a Bingen, a Coblenza. Avrei voluto andar più su di Colonia, più su della Germania, almeno in Norvegia. Ma poi pensai che io dovevo imporre un certo freno alla mia libertà. Il denaro che avevo meco doveva servirmi per tutta la vita e non era molto. Avrei potuto vivere ancora una trentina d'anni e così fuori d'ogni legge, senza alcun documento tra le mani che comprovasse, non dico altro, la mia esistenza reale, ero nell'impossibilità di procacciarmi un qualche impiego. Se non volevo dunque ridurmi a malpartito, bisognava che mi restringessi a vivere con poco. Fatti i conti, non avrei dovuto spendere più di 200 lire al mese. Pochine, ma già per 2 anni avevo anche vissuto con meno, e non io solo. Mi sarei dunque adattato. In fondo, ero già un po' stanco di quell'andar girovago sempre solo e muto. Istintivamente cominciavo a sentire il bisogno di un po' di compagnia. Me ne accorsi in una triste giornata di novembre, a Milano, tornato da poco dal mio giretto in Germania. Faceva freddo ed era imminente la pioggia con la sera. Sotto un fanale scorsi un vecchio cerinaio a cui la cassetta che teneva dinanzi con una cinta a tracolla impediva di ravvolgersi bene in un logoro mantello che aveva sulle spalle. Gli pendeva dalle pugna strette sul mento un cordoncino fino ai piedi. Mi chinai a guardare e gli scoprì tra le scarpacce rotte un cucciolotto minuscolo di pochi giorni che tremava tutto di freddo e gemeva continuamente lì rincantucciato. Povera bestiolina, domandai al vecchio se la vendesse. Mi rispose di sì e che me l'avrebbe venduta anche per poco, benché valesse molto. Ah, si sarebbe fatto un bel cane, un gran cane, quella bestiola. 25 lire! Seguitò a tremare il povero cucciolo, senza inorgoglirsi di quella stima. Sapeva di certo che il padrone con quel prezzo non aveva affatto stimato i suoi futuri meriti, ma la imbecillità che aveva creduto di leggermi in faccia. Io intanto avevo avuto il tempo di riflettere che comprando quel cane mi sarei fatto sì un amico fedele e discreto, il quale per amarmi e tenermi in pregio non mi avrebbe mai domandato chi fossi veramente e d'onde venissi e se le mie carte fossero in regola. Ma avrei dovuto anche mettermi a pagare una tassa, io che non ne pagavo più. Mi parve come una prima compromissione della mia libertà. Un lieve intacco ch'io stessi per farle. 25 lire, ti saluto, dissi al vecchio cerinaio. Mi calcai il cappellaccio sugli occhi e sotto la pioggerella fina fina che già il cielo cominciava a mandare, m'allontanai, considerando però per la prima volta che era bella sì, senza dubbio, quella mia libertà così sconfinata, ma anche un tantino tiranna, ecco, se non mi consentiva neppure di comperarmi un cagnolino. Fine del capitolo 8.